You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, sempre introdotti da questo spezzone di questo film di ormai più di 50 anni fa, Indovina chi viene a cena. I dubbi che premevano sulla società americana appunto di quasi mezzo secolo fa sono gli stessi che ha la nostra società e anche lo sport in Italia. Ne parliamo spesso in questa trasmissione, ne abbiamo parlato delle seconde generazioni dello sport, del razzismo nel calcio, e questa sera lo facciamo con due protagonisti di questi temi, Joseph Dayo Oshadogan. Buonasera. Buonasera Valentina, buonasera. Grazie, sono molto onorata perché è stato il primo calciatore di colore a vestire la maglia della nazionale azzurra Under 21, insomma un precursore di una tendenza che poi si è sviluppata negli anni a venire, no Dayo? Sì, ho avuto, insomma, sono stato il primo, poi dopo comunque sia ce ne sono stati altri. Ho aperto la porta. Tu sei nato a Genova da padre nigeriano e mamma italiana e vivi ora tra l'Italia e la Polonia. E poi ci racconterai un po' più di te. Io mi guarderò bene dal parlare di calcio, che non è il mio, ma parleremo di temi che riguardano il calcio, lo sport. E per questo abbiamo anche un altro graditissimo ospite, Mauro Valeri, storico dello sport italiano, a lungo responsabile dell'Osservatorio del Razzismo nel Calcio. Buonasera Mauro. Buonasera a voi. Grazie di essere con noi. Tu sei l'autore di molti libri interessanti, l'ultimo Campioni d'Italia, la seconda generazione dello sport, ma insomma ne hai scritti veramente tanti, Mario Balotelli vincitore nel pallone, Che razza di tifo, Black Italians, ci sentimmo allora nel 2006 quando tu pubblicasti Black Italians, atleti neri in maglia azzurra. Hai sempre seguito un po' questi temi, no? E si fa stringente il dibattito perché invece che diventare una cosa normale, ogni 15-20 giorni ci ritroviamo a dover discutere sugli oriundi, sul razzismo sui campi da calcio, per anche fenomeni di razzismo proprio durante le partite, no Mauro? Sì, diciamo che penso che un po' il problema sia che lo sport in Italia sia rimasto molto indietro, questa a differenza di altri paesi. Penso per esempio alla Germania, che ha cambiato modello, sia modello della cittadinanza, ma anche proprio investito nel calcio e nello sport in generale come momento di integrazione vera. In Italia questo non c'è, purtroppo abbiamo questo ritorno continuo del tema del razzismo e in parte anche un po' di questo falso nazionalismo che ogni tanto riemerge come nel dibattito sugli oriundi. Poi ne parleremo. Dayo, tu era un po' che non ti sentivamo in Italia, tu hai giocato tanto per tante squadre, Pisa, Foggia, Roma, Regina, Cosenza, poi il Monaco, la Ternana, però non ti si sentivano un po' e ti abbiamo sentito sui giornali proprio per la tua presa di posizione dopo il caso Tavecchio, il cosiddetto caso Tavecchio, no? La prima reazione è stata quella di incredulità e poi comunque un po' di delusione, perché era un po', io in quel frangente ero fuori, non ero in Italia, e quindi avere sempre questa questa piccola, insomma, la delusione di vedere da fuori magari il proprio paese che dà non proprio la migliore delle immagini. È stata quella, da italiano, è stato più un dispiacere che un sentimento di rabbia il mio. Quindi poi dopo, anche parlandone con Mauro e con altri, cioè, la sensazione era più quella, come è possibile, nonostante gli anni passano, ritrovarsi sempre a dover dare questo tipo di dimostrazioni. Era un po' quello il dispiacere. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando. Sono qui con le mie buste della spesa, lo vedi, sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. Quando tu hai vestito la maglia azzurra per la nazionale, sei stato il primo, appunto, come dicevamo, di colore, ti sentivi preso di mira? Oppure il fatto, questo bell'accento che hai conservato, il fatto di essere, insomma, italiano, ti ha aiutato? Ma io l'ho sempre detto, l'ho vissuta, ma penso come la vivono tutti i ragazzi che aspirano a quella maglia. Quindi è la maglia, diciamo, quella più importante. Era praticamente il concretizzarsi di un sogno di un ragazzo. A livello mediatico fu una cosa enorme, che non avrei mai immaginato avesse una risonanza del genere, proprio perché episodi, diciamo, spiacevoli e tutto quanto, mi sono sempre dato come risposta che se qualcuno ha un problema, non è un problema mio, è un problema degli altri. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente e che ti porti via. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Anche pochi giorni fa, nel Triveneto, c'è stato riportato dal Messaggero Veneto questa squadra che veniva insultata dalla squadra avversaria, va in Africa a raccogliere le banane, alcuni di questo giovane calciatore insultato appunto perché nero. Ti è mai successa una cosa del genere? Parliamo di parecchi anni fa. Ma sì, mi è successo in vari stadi, è successo non solo a me, erano praticamente normali, cioè al massimo ti potevano dire non ascoltate, pensate alla partita, così, ma era una cosa normale. Il mio vissuto professionistico è stato accompagnato da queste cose. Da tutte queste cose. Vorrei capire quanta distanza c'è, Mauro, tra Londra e Milano o Roma, visto che un ragazzino di 15 anni a Londra è finito dietro le sbarre per un tweet razzista destinato a un calciatore di colore. Ecco, quanta distanza c'è tra l'Italia e l'Inghilterra? Guarda, cioè, nella distanza, diciamo, purtroppo ancora molto significativa. La vera differenza sta nel fatto che in altri paesi, e penso soprattutto all'Inghilterra, ma non solo, ma anche alla Francia o all'Olanda, c'è una maggiore consapevolezza da parte di tutti, sia delle società sportive, sia dei tifosi stessi. Qualche tempo fa, per fare un esempio, durante una partita di una squadra di calcio, il West Ham inglese, un tifoso del West Ham ha fatto un insulto razzista, sono stati gli altri tifosi del West Ham a prenderlo, a portarlo via, a denunciarlo, e la società gli ha ritirato l'abbonamento e per 5 anni non potrà più frequentare gli stadi. C'è, secondo me, un doppio livello, cioè da una parte c'è questa esigenza di essere molto più severi nei confronti di chi commette episodi di discriminazione sia in campo che dagli spalti. Dall'altra, ed è questa un'altra differenza che abbiamo con altri paesi, da noi manca molto il discorso della cultura sportiva, cioè da noi quando si parla di razzismo sembra quasi parlare di qualcosa così lontano e non ci riguarda, mentre invece in altri paesi questo è diventato un argomento, come dire, anche bipartisan, da parte sono tutti convinti che una società e soprattutto uno sport razzista non fa bene a nessuno. Ricordo una cosa per far capire come siamo messi anche in Italia, che ho citato anche nel libro su Balotelli, una frase di Mourinho che disse che non era razzismo gli insulti a Balotelli, ma che l'unico razzismo vero era quando tutti i tifosi di entrambe le tifoserie insultavano tutti i giocatori in campo. E quindi è una situazione paradossalmente non si potrebbe verificare mai, spero. Quindi dovremmo riflettere noi quanto e qual è il livello di razzismo che noi dobbiamo combattere. Un problema culturale, quindi. Un problema molto culturale anche, certo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Nourishment in the name of missionary. Torniamo in studio con questa musica in sottofondo di Necca, padre nigeriano, madre tedesca, è una cantante di 34 anni, insomma arriva anche lei dalla Nigeria, la conosci Dayo? Sì, l'ho sentita, sì. Molto affascinante in effetti questo connubio nigeriano-tedesco. Dayo, la Nigeria, che rapporto hai con questo paese? Tra l'altro da pochissimo ci sono state le elezioni presidenziali, è un paese molto, il più popoloso dell'Africa, il più ricco di risorse. Che rapporto hai con questo paese? Un rapporto, insomma, ancora in divenire, nel senso che sto adesso conoscendo i miei familiari giù. Ora a Natale è venuto su mio cugino, per farti capire era la prima volta che lo vedevo. Negli anni avevo conosciuto solo due dei miei zii. Tu non sei mai stato in Nigeria? No, dovrei andare forse fine anno se tutto va bene. Un viaggio, insomma, che andresti a fare in un paese straniero per te, no? Sì, decisamente sì, ed è quello che potrebbe capitare a tanti ragazzi che magari sono nati e cresciuti in Italia e che del paese di origine effettivamente non conoscono effettivamente nulla. Cioè chi nasce e cresce in Italia si sente per forza di cose culturalmente un italiano, e nello sport purtroppo ancora non sono riconosciuti come tali. Mauro, tu dicevi che c'è anche la questione nazionalismo, no? Nel dibattito in particolare sugli oriundi, per chi non l'avesse seguito c'è stata questa convocazione da parte del CT Antonio Conte in nazionale di due oriundi in vista di due impegni, e si è riaperto questo caso per bocca di Roberto Mancini, secondo il quale la nazionale italiana doveva invece essere tutta italiana, ma ci sono state anche diverse prese di posizione. Qualche tempo fa, ricordo Arrigo Sacchi, disse che c'erano troppi giocatori di colore nelle giovanili. Mauro, insomma, si fa anche un po' di confusione, no? Tra giocatori di colore, oriundi. Tu cosa dici? Io penso questo. Sugli oriundi, cioè, penso che bisogna stare attenti a fare appunto, come dicevi, confusione, perché comunque io penso che chiunque abbia il passaporto italiano è un italiano a tutti gli effetti. Ed è estremamente pericoloso iniziare a ragionare in termini di italiani veri o italiani invece non veri. Questo, l'italiano vero per ora rimane soltanto in una canzone di Toto Cotugno, e spero che rimanga lì. Mi ricordo che tempo fa anche Balotelli è finito tra gli oriundi, che lui proprio di oriundi non c'è niente, cioè, lui è stato non adottato, ha un ascendente, certo, italiano. Però dico, è un po' pericoloso quando si dice no agli oriundi, perché appunto è come dire a un certo punto che esistono degli italiani di serie A e di serie B. Poi c'è un problema pratico, e secondo me è quello invece su cui va discusso, che è quello dei vivai. Però qui torniamo al discorso che faceva anche Daio, che con appunto la gaffa di Sacchi, che poi se per dire che io devo tutelare i vivai italiani vuol dire che ho in testa un ragazzo che è bianco, nato in Italia e non si sa quali altre caratteristiche ha, è veramente una forma di discriminazione e di razzismo che invece va combattuta. Perché noi abbiamo una normativa appunto che fa sì che è italiano chi ha almeno un genitore italiano e non conta tanto se nasci e cresci in questo paese. Tanto per così ricordarlo a tutti, Mario Balotelli, che è nato e cresciuto in Italia, non è mai andato fuori dall'Italia, per 5 giorni non ha potuto indossare la maglia nazionale olimpica perché mancavano 5 giorni alla maggiore età e fino a quel momento lui era ghanese. Quindi se vogliamo dire di aprire, di favorire i vivai, bisogna sempre riflettere se stiamo veramente facendo del calcio un luogo di integrazione oppure se diventa un luogo di discriminazione dove i ragazzi che hanno il colore della pelle diversa, non sono nati in Italia o per altri motivi non vengono favoriti, non gli viene aperta la porta delle squadre di calcio, che è quello che purtroppo sta accadendo in Italia. In this madness, in this world, with its swiftness and its coldness, you're my peace of mind. Yes. When the world just keeps turning and I know not where to head to, you're my peace of mind. And when I look up in the skies, it's the honor you created, nothing else to count for your everlasting love. Tra l'altro, in questi giorni è cominciata alla Camera la discussione della proposta di legge sulla cittadinanza sportiva ai minori stranieri tesserati in Italia, che anche il parere favorevole del governo attraverso le parole del sottosegretario con delega allo sport Graziano Del Rio. Può essere utile questo tipo di percorso anche legislativo? Io spero di sì, anche se mi lascia sempre perplesso il fatto che serve una norma addirittura, diciamo, del governo e non ci sia stata una presa di posizione delle federazioni, perché alcune federazioni questo discorso sulla cittadinanza sportiva l'hanno già fatto, penso alla Federazione Atletica Leggera, il cricket, il badminton, qui ci sono. Diciamo che il CONI non si è espresso e questo è stato secondo me un po' un grande limite. Poi, e voi lo dite anche nel libro ormai Campione d'Italia, no? Le seconde generazioni dello sport, sì. Questa ambivalenza del CONI. Un po' diffidente di questo, conosco un po' di sotterfugi che possono essere fatti, per esempio la legge, il disegno che sto presentato prevede un favorire il tesseramento, questo è già un passo avanti, però poi io so che che nel calcio per esempio esiste che un conto è il tesseramento, un conto è quante sono le persone che possono essere invece schierate in campo, per cui io posso avere 12 giocatori tesserati extracomunitari, ma poi ne posso mettere in campo uno solo e quindi diciamo che la norma non porterebbe grandi vantaggi in questo caso, quindi bisogna anche essere abbastanza attenti, sicuramente se il mondo dello sport mantiene una posizione invece di chiusura non bastano le leggi che fa il governo. Daio, Balotelli per un certo periodo ha rappresentato un simbolo positivo per i ragazzini di colore. Anche tu hai rappresentato un simbolo, te ne rendevi conto? Perché secondo me Balotelli forse non se ne rendeva conto e anzi non voleva proprio esserlo, non vuole esserlo. Ma si parla comunque di periodi diversi. Nel senso che adesso prima era molto più difficile, cioè le televisioni non c'era il calcio come è vissuto adesso ogni ora in televisione, quindi era più una cosa che magari chi mi conosceva perché era veramente un appassionato. Adesso anche chi non si interessa di calcio può prendere spunti, cioè, su qualsiasi media, diciamo. Quindi penso che siamo stati diversi. Quindi, cioè, lui ha avuto, secondo me, anche queste difficoltà. e che comunque vivere l'esperienza che ha vissuto lui in età come la sua e tutto quanto, con i media è stato caricato di pressioni ulteriori. Tante volte è anche stato preso un po' come capo espiatorio. Mauro, riguardo a questo, ci sarà un altro probabilmente calciatore in un'altra epoca diversa da quella che ha vissuto Dayo e da quella che ha vissuto Mario Balotelli, che probabilmente si prenderà sulle spalle questa responsabilità con più consapevolezza? Stante oggi le leggi la vedo difficile, tant'è che noi abbiamo ancora soltanto di fatto 3 giocatori in Serie A, a parte Balotelli che adesso gioca in Liverpool, ma Okaka, Ogbon e poi... c'è la Ribi in Serie B, dopodiché non c'è il vuoto, nel senso che i ragazzi di seconda generazione o diciamo anche quelli che hanno un colore della pelle tendenzialmente si fermano alla squadra primavera, perché poi per le norme italiane non riescono ad avere un percorso così semplice. E la seconda cosa è che secondo me quello che, parlando spesso per esempio con Lilian Thuram, che anche fatto la premessa al mio libro, abbiamo discusso su questo tema e ho capito che lui ha avuto sicuramente delle grandissime capacità personali a riflettere, a essere un simbolo positivo, però alle spalle Lilian c'aveva anche tutto un movimento, diciamo un movimento antirazzista, ma in senso molto ampio, e invece io quando ho studiato Balotelli ho capito che in Italia per esempio Balotelli non è mai stato sostenuto né nell'ambiente interno, come diceva prima Dayo, ma neanche da quello che era il movimento antirazzista, e questo perché un po' il calcio viene vissuto molte volte come qualcosa di non importante, mentre invece proprio per quello che si diceva ormai è uno dei momenti più importanti anche per la diffusione dei media, per quanti i ragazzi comunque seguono tutte le vicende, e devo dire che siamo ancora un po' indietro, anche perché mi diceva l'altro giorno un ragazzo meticcio, mi dice: ma io dove sto in televisione? La televisione italiana purtroppo modelli di ragazzi appunto italiani, ma col colore o dei tratti somatici, non quelli che rientravano nei nostri canoni, ancora sono molto assenti. Quindi per quello penso che un ragazzo di seconda generazione, oltre al fatto che può avere un colore diverso alla pelle, potrà essere un simbolo positivo quando non sarà solo da solo in questa sua, diciamo, battaglia di cambiamento culturale, ma quando anche altri sosterranno questo cambiamento. Magari anche le tifoserie, mi viene da dire. Anche le tifoserie. Grazie a Dayo Oshadogan per essere stato con noi, lo ripeto, il primo calciatore di colore a vestire la maglia della nazionale. Grazie mille Dayo, buona serata. Grazie a te Valentina. Grazie anche a Mauro Valeri, storico dello sport italiano, responsabile a lungo è stato dell'Osservatorio del Razzismo nel Calcio, autore di moltissimi libri su questi temi. Grazie Mauro. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati questa sera all'ascolto e a Gianmarco Ferronato in regia per il prezioso aiuto. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of a